Madre Holly. C'era una volta una vedova che viveva in un villaggio. Aveva due figlie. La figlia maggiore si chiamava Stella. Stella era molto gentile e lavorava sodo. La figlia più giovane, Bella, era maleducata e pigra. Ma la donna amava di più la figlia minore perché era sua figlia. La più grande era la figliastra. Così faceva fare le faccende di casa a Stella tutti i giorni. Stella, finisci tutto questo lavoro. Devi ancora andare a filare. Bella, vieni qui, mia cara. Devi essere affamata, prendi qualcosa. Stella finì rapidamente tutto il lavoro di casa e andò a filare. Ogni giorno la matrigna la mandava vicino al villaggio per filare e Stella filava finché le sue dita sanguinavano. Un pappagallo viveva accanto al pozzo. Stella gli parlava mentre filava. Un giorno, mentre filava, le sue dita iniziarono a sanguinare e il sangue macchiò il filo. Appoggiò il fuso sul pozzo per pulirlo e cominciò a tirar sull'acqua quando la rocca cadde nel pozzo. No! La rocca è caduta nel pozzo! Cosa faccio adesso? Se la mamma lo scopre, si infurierà! Stella provò in tutti i modi a prendere la rocca, ma non ci riuscì. Corse a casa e disse alla sua matrigna: Madre, la rocca è caduta nel pozzo! Perché non sei caduta tu nel pozzo invece della rocca? Ora dove ne prenderò un'altra? Vai e tirala fuori dal pozzo! Non tornare senza la rocca, capito? Piangendo, Stella tornò al pozzo. Aveva già provato di tutto per tirar fuori la rocca dal pozzo. Quindi, non sapendo cos'altro fare, Stella saltò nel pozzo. Quando aprì gli occhi, si ritrovò in un campo erboso. Il sole brillava e c'erano fiori adorabili ovunque. Dove sono? Che bel posto è questo! Che buon odore! Stella andò avanti e da lontano vide un forno. C'erano dentro delle belle pagnotte. Le pagnotte la stavano chiamando. Era questa una specie di terra magica? Tiraci fuori! Tiraci fuori! Altrimenti bruceremo! Stiamo cuocendo da molto tempo! Qualcuno ci tiri fuori! Stella udì le pagnotte e le tolse dal forno. Grazie! Stella andò oltre e vide un melo. Anche l'albero stava parlando. Tutte le mie mele sono mature! Per favore, qualcuno le colga e le mangi, altrimenti marciranno tutte! Stella sentì parlare l'albero e non poté sopportare che l'albero soffrisse. Non appena iniziò a scuotere l'albero, le mele caddero a terra come pioggia. Stella continuò a scuotere l'albero fino a quando l'ultima mela fu caduta. Poi raccolse tutte le mele da un lato e se ne andò. Mentre continuava a camminare, raggiunse una capanna dove vide una donna anziana. La nonna aveva denti così orrendi che Stella si spaventò e non appena si voltò per scappare da lì, la vecchia donna la chiamò. Non aver paura di me, bambina mia. Se ti prenderai bene cura della mia casa, potrai restare qui. Ti darò tutto. In cambio, devi semplicemente assicurarti di coprire il mio letto di piume ogni giorno, proprio come la terra è coperta di neve dopo una nevicata. E sì, tutti mi chiamano Mamma Holly. Mamma Holly le parlò così amorevolmente che Stella accettò di restare con lei. Stella si occupava molto bene della casa e ogni giorno faceva il letto di Mamma Holly esattamente come le aveva chiesto Madre Holly. Anche Madre Holly amava molto Stella e le dava del cibo delizioso da mangiare. Stella rimase lì per un po' e poi iniziò a sentire nostalgia di casa. Mamma Holly è così gentile con me, si prende tanta cura di me, ma mi manca casa. Stella era molto felice con Mamma Holly. Ma ora era arrivata l'ora di tornare a casa. Così un giorno disse a mamma Holle: Mamma Holle, vorrei tornare a casa. Non posso restare ancora qui. Sono felice che tu voglia tornare a casa. Hai lavorato in modo molto onesto. Sono molto felice di te. Ti lascerò tornare a casa adesso. Veramente? Grazie, mamma Holle. Mamma Holle prese la mano di Stella e la condusse verso un'enorme porta d'oro. La porta si aprì. Nel momento in cui Stella varcò la soglia della porta, cominciò a piovere oro su di lei. E prima che se ne accorgesse, era vestita d'oro dalla testa ai piedi. Questa è la tua ricompensa per avermi servito con tanto amore. Ecco qui, la rocca che hai lasciato cadere. Stella non poté fare a meno di chiedersi se tutto ciò fosse reale o semplicemente un sogno. Non aveva mai ricevuto così tanto amore da nessuno in tutta la sua vita. Pianse lacrime di gioia. Poi il portone si chiuse e Stella si ritrovò in piedi vicino al pozzo, fuori dalla casa della matrigna. Appena la vide, arrivò il pappagallo e si sedette sulla spalla di Stella e le disse: Eccola qua! Tua figlia Pua Comelò è tornata! Il pappagallo continuò a ripetere questo più e più volte. Quando Stella entrò in casa, la sua matrigna e Bella rimasero scioccate nel vederla, perché era vestita d'oro dalla testa ai piedi. Le chiesero felicemente di entrare. Stella, mia cara, dove sei stata? Ero così preoccupata per te. Dove hai preso questo? Stella le raccontò tutto. Sentendo la sua storia, il cuore della matrigna si riempì di avidità. Wow, così tanto oro? Se mando anche Bella, diventerò molto, molto ricca. Proprio come aveva fatto con Stella, la matrigna mandò anche Bella a filare al pozzo. Bella si punse il dito con una spina così da sanguinare. Mise il sangue sul filo e lo gettò nel pozzo e poi saltò nel pozzo. Come Stella, anche i suoi occhi si aprirono in un campo erboso. Si alzò e andò avanti. Raggiunse il forno, le pagnotte di pane nel forno gridarono: Tiraci fuori! Tiraci fuori! Altrimenti bruceremo! Stiamo cuocendo da molto tempo! Qualcuno ci tiri fuori! Siete pazze? Perché dovrei sporcarmi le mani per voi? Bella disse così e andò avanti. Raggiunse poi il melo. Tutte le mie mele sono mature. Per favore, qualcuno le colga e le mangi, altrimenti marciranno tutte. Sei pazzo? Perché dovrei coglierle? Che succede se una mela mi cade addosso? Parlò maleducatamente anche all'albero e andò avanti. Finalmente raggiunse la casa di mamma Holle. Aveva sentito parlare dei suoi orrendi denti da Stella. Così, senza spaventarsi, chiese a mamma Holle di lavorare. Mamma Holle, ho sentito che hai bisogno che qualcuno lavori per te. Per favore, lasciami lavorare. Mamma Holle le spiegò tutto quello che doveva fare e come voleva che le piume venissero messe sul suo letto ogni giorno. Il primo giorno Bella obbedì a mamma Holle, ma poi il giorno dopo iniziò a rimanere a riposo. Il terzo giorno non fece proprio nulla. Alla fine iniziò a dormire tutto il giorno ed ignorò persino il compito di mettere le piume sul letto di mamma Holle. Non vedendo piume sul suo letto, mamma Holle si infuriò. Andò da Bella e le disse: Penso che ora tu debba tornare a casa. Bella fu entusiasta di sentire questo. Pensò che ora avrebbe preso l'oro. Mamma Holle la condusse alla porta d'oro. Appena Bella varcò la soglia della porta, al posto dell'oro piovve su di lei un sacco di fango. Questa è la tua ricompensa per il lavoro che hai fatto. La porta si chiuse e lei ritornò a casa. Il pappagallo la vide e, seduto sul suo pozzo, cominciò a gridare. Eccola qui! Tua figlia è pronta e piena di fango! È tornata! Ecco perché si dice che anche quando copi qualcuno, devi usare il cervello. Come Stella, Bella è riuscita a raggiungere la capanna di Mamma Holle, ma a causa della sua pigrizia e della sua maleducazione, ha portato a casa il fango invece che l'oro. Quindi, da questa storia, impariamo che dobbiamo essere sinceri e onesti in qualunque cosa facciamo.